Andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore e sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi e tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore. Scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del dì. Andiamo a mietere il grano, raccoglieremo l'amore, mentre i covoni di paglia profumano la con gli occhi i segreti nascosti in fondo al cuore. Sotto un ciliegio baciato dal sole l'ombra potremo trovare e sotto un cielo di vita